posso non pensarti. La notte maledico te. E quando infine spunta l'alba, c'è solo vuoto intorno a me. La notte tu mi appari immensa, invano tento di afferrarti, ma ti diverti a tormentarmi. La notte tu mi fai impazzir. La notte mi fai impazzir. Mi fai impazzir. E la tua voce fende il buio, cercarti non lo so. Ti vedo e torna la speranza. Ti voglio tanto bene ancora. Per un istante riappari, mi chiami e mi tendi le mani, sangue si fa ghiaccio quando ridendo ti allontani. La notte mi fa impazzir, mi fa impazzir. Il giorno splende piena pace e la tua immagine scompare. Felice tu ritrovi l'altro.